Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli e a proposito di date, il 28, quindi dopodomani, a Vilnius, Summit europeo del partenariato orientale, avrebbe potuto essere l'occasione per firmare un accordo commerciale vincolante e importante tra Unione Europea e Ucraina. Le cose sono andate diversamente e dunque l'avete sentito nei nostri giornali radio, negli ultimi due giorni si parla di scontri, si registrano scontri e opposizione nelle strade di Kiev. Ecco, appena arrivata in redazione, il summit europeo dunque a Vilnius ha annunciato una dichiarazione di messa in guardia nei confronti della Russia e delle sue ingerenze sui paesi vicini. Intanto il presidente ucraino Viktor Yanukovych, che sarà presente al vertice, fa sapere che è disponibile invece a una trattativa e rassicura la popolazione dicendo: non abbiamo nessuna intenzione da uscire dalla linea europea. Insomma, una situazione critica di cui ci fa il punto Antonella Scott. Il presidente Viktor Yanukovych si difende con un discorso in TV, spiega agli ucraini che la decisione di sospendere l'accordo di associazione all'Europa non è stata facile e assicura che in Ucraina non c'è alternativa alla creazione di una società basata sugli standard europei e lui lavorerà per raggiungerli. La sua rivale Yulia Tymoshenko, dall'ospedale in cui è rinchiusa, va invece all'attacco, annunciando uno sciopero della fame a oltranza finché Yanukovych non avrà firmato quell'accordo con la UE. Attacca invitando i dimostranti a proseguire la protesta e nella grande piazza dell'indipendenza di Kiev anche loro promettono di restare. Già qui sono rispuntate le tende dei tempi della rivoluzione arancione. Con toni durissimi i leader europei accusano la Russia di aver interferito nelle scelte dell'Ucraina, che si ritrova spaccata o con la Russia o con l'Europa. Un compromesso sembrerebbe possibile nelle parole del presidente, ma la realtà sembra diversa mentre russi e ucraini già trattano le nuove condizioni delle forniture di gas. Il Ministero degli Interni promette che la polizia non attaccherà i manifestanti, ma alcuni scontri ci sono già stati. Nel nome dell'Europa la rivoluzione arancione è tornata e metterà alla prova quegli standard europei di cui parla Yanukovych. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Fino al prossimo 30 novembre le piccole e medie imprese italiane possono partecipare a seminari e incontri organizzati in tutta Italia dalla rete Enterprise European Network per capire come accedere ai finanziamenti della Commissione Europea. Sentiamo Nicoletta Marchiandi-Quataro, coordinatrice per il Nord-Ovest, al microfono di Valentina Furlanetto. Ieri da Torino si sono aperti gli EN Days, cioè 60 appuntamenti in 19 regioni e 40 città d'Italia, da nord a sud, per illustrare quelle che sono le opportunità per le imprese e i centri di ricerca derivanti della nuova programmazione finanziaria europea. Altro obiettivo è stato anche quello di far conoscere i servizi di questa rete, che è Enterprise Europe Network, nata dalla Commissione Europea per supportare le imprese ad accedere alle opportunità che arrivano dal mercato europeo e dai finanziamenti europei. E ricordo che tra il 2014 e il 2020 oltre 10 miliardi di euro saranno a disposizione per operatori quali imprese, centri di ricerca. I grossi ostacoli per le piccole e medie imprese sono accesso al credito, quindi la possibilità per le aziende di ottenere dei finanziamenti dagli intermediari finanziari, difficoltà amministrative per esportare nel mercato europeo o anche solo accedere a mercati più grandi rispetto all'Europa come i mercati internazionali o, ultimo ma non ultimo, attuare progetti di innovazione. Il fatto che la rete sia una rete della Commissione Europea fa sì che i nostri servizi, che sono ad alto valore aggiunto, siano totalmente gratuiti per le aziende. Nicoletta Marchiandi-Quataro al microfono di Valentina Furlanetto. Dettagli li trovate anche su EEN-Italia, quindi www.EEN-Italia.eu. E in conclusione, la BCE lancerà nel 2014 una nuova banconota da 10 euro, raffigurante come le altre della serie Europa, l'effigie della divinità greca che ha dato il nome al vecchio continente. Con questo è tutto, l'Europa torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus. Anche la Zanzara sarà in diretta da Forum Agenti, venerdì 29 novembre, Fiera Milano City. Per scoprire le altre dirette e partecipare, vai su radio24.it.